Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Venerdì 25 marzo 2011, anche oggi siete i benvenuti all'interno di Rock Wave, edizione speciale questa con la voce di Francesco Galante, ma anche con la voce di Maurizio Calzavara e dei nostri ospiti che adesso andiamo a presentare. Maurizio. Buonasera Checco, buonasera ai nostri ascoltatori. Stasera abbiamo una band molto molto interessante, vengo direttamente dalla Svizzera per noi, dopo il concerto che avete fatto a Trieste. Gio Colombo e la sua band. Gio Colombo è un musicista blues, hard rock, soprattutto hard rock e soprattutto blues, parte da Hendrix, la tua musicalmente inizi da Hendrix, da 12 anni hai sentito il primo disco di Hendrix, una cosa meravigliosa secondo me. Beh, ciao a tutti innanzitutto, sì, blues, heavy blues, hard blues, insomma le definizioni sono tante. Blues è la tua, il tuo DNA praticamente. Blues è il punto di partenza e poi diciamo la cosa si evolve. Chiaramente siamo musicisti bianchi, siamo svizzeri, quindi il rock è parte del nostro DNA e della nostra cultura, insomma. Mi dicevi... Siccome è nata l'idea di fare questa band, adesso presentiamo i musicisti, chiaramente sono qua. Sì, allora presentiamo subito i musicisti, abbiamo Franco Campanella che è il vocalist, il lead vocal della band, che è arrivato durante la lavorazione dell'ultimo disco in studio Delta Chrome, quindi è la new entry della band. E abbiamo Gianandrea Costa al basso, con cui suoniamo da diversi anni ormai, e alla batteria Rocco Lombardi, che invece è un veterano, suoniamo proprio dagli inizi, ormai saranno quasi 10 anni. Che è una macchina ritmica, Rocco, io ho sentito il disco dal vivo, è proprio una macchina ritmica. È una macchina in ogni senso. Assolutamente, in ogni senso. Ok, hai inciso un album da poco, disco dal vivo, che abbiamo qui in studio, poi sentiremo. Però la tua discografia non parte dal disco dal vivo, come inizia discograficamente, come inizi? Beh, il primo disco è stato nel 2002, è stato un disco in studio, ma io lo definirei quasi un disco in studio dal vivo, perché è stato registrato proprio one take, così. Sì, di getto praticamente. Di getto, senza overdub, senza niente, quindi una cosa proprio dal vivo, c'era già Rocco Lombardi alla batteria. Era un disco per certi versi un po' più blues per via delle armonie ritmicamente. A parere mio l'approccio è sempre lo stesso. Hendrix Docet sempre in ogni caso. Come? Hendrix Docet. Beh, Hendrix, sì, mi dicevi prima di Hendrix, è stata una grande influenza perché, beh, penso per ogni chitarrista. Però io sono cresciuto con dei genitori che hanno vissuto in pieno gli anni 60. E quindi quando diciamo tutta la musica dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra cominciava a venire importata, Hendrix, gli Stone, eccetera eccetera, Hendrix in particolare mi ha colpito e da ragazzino l'ascoltavo. Oltretutto ho suonato per tanti anni la chitarra elettrica tradizionale prima di fare un certo tipo di scelte particolari, e quindi Hendrix era il mio punto di riferimento fin dagli inizi. Poi anche altri musicisti importanti, Stay Ray Vaughan per esempio, un altro grosso mito tuo praticamente. Sì, lui fa più parte della, tra virgolette, mia generazione, anche in lui chiaramente l'influenza di Hendrix è fortissima, quindi il legame è molto vicino. Lui è un po' più legato al blues, quindi sì, Stevie Ray, Johnny Winter, se posso aggiungerne chitarista uno. Chitarista bianco che suonava più meglio dei neri. Non si può. Suonava meglio dei neri, chitarristi neri. E oltretutto da Johnny Winter è nata probabilmente il legame con lo slide, il suonare con lo slide. Ecco, spieghiamo un momento il legame con lo slide, questa tecnica particolare, spieghiamo ai nostri ascoltatori lo slide. Sì, è una scelta che ho fatto dopo diversi anni che suonavo, e si tratta di una tecnica dove si fa scivolare un pezzo di metallo, originariamente un collo di bottiglia rotto, sulle corde, e quindi non si suona proprio con le dita ma facendo scivolare questo slide. Si usano delle accordature diverse dal normale, e ci sono delle chitarre che sono quelle che utilizzo io, che sono le Dobro, le National, che hanno si chiamano chitarre con risonatore, che hanno una sonorità particolare un po' nasale che si presta per questa tecnica legata allo slide. Io personalmente, essendo partito da Hendrix, della chitarra elettrica, mi sono trovato con gli anni a mescolare le due cose, quindi il mio è una tecnica ibrida, diciamo che suono ancora tanto con le dita e soprattutto quello che ascolto oggi è poco legato allo slide, anzi mi piace ascoltare chi non suona slide e trasporlo in quello che poi... Per far capire ai nostri ascoltatori, qualche volta, non so Francesco se ti ricordi, Mark Knopfler suona questo tipo di chitarra. Sì, non ho mai capito bene questa cosa, perché i Dire Straits hanno avuto una famosa copertina, sì, con quella chitarra là, con questa chitarra risofonica. In realtà non so quanto sia stata suonata nell'album. Però lui la sa suonare. Però no, ho visto comunque che anni dopo, in ambiti acustici o in altre situazioni, lui è un fan della musica country americana e quindi il legame con la chitarra risonatore, questo tipo di sonorità è scontato e deve esserci. E poi anche citi i ZZ Top, quella musica assolutamente americana. Beh, ZZ Top è un gruppo straordinario, anche, soprattutto dal vivo. Sì, qui vabbè, ci tengo a dire un punto molto importante. Nella mia crescita musicale ho ascoltato di tutto, partendo appunto dai dischi che avevano i miei genitori, che includeva tanta musica inglese che ho ascoltato, come Rolling Stone, Beatles. Però col passare degli anni mi sono sempre più indirizzato verso le sonorità americane e vabbè, i ZZ Top sono Massimo l'icona di queste sonorità, insomma. E poi stilisticamente sono un miscuglio perfetto tra blues e rock, cosa che io mi trovo proprio in equilibrio in questa cosa. Ho tanti conflitti in questo senso. Il blues fa parte di me, il rock fa parte di me e non è difficile equilibrare le due cose. ZZ Top rappresentano in pieno questo equilibrio. Ma sono conflitti piacevoli musicalmente parlando, cosa dici? Certe volte piacevoli, certe volte no, però apriamo la finestra. Francesco, cosa dici col sennò, primo pezzo? Infatti ti stavo per bloccare, perché sennò tu vai avanti a ruota con le domande, invece è giusto far sentire la musica di Gio Colombo e Delta Chrome. Andiamo a prenderci allora la prima traccia dal loro album che si intitola Delta Chrome e proprio questo è il singolo che ci accompagna. Rock Wave, l'onda del rock. We'll be right back. Euradio. Rock Wave, l'onda del rock. E allora Maurizio, eccoci qua, pronti, dopo aver ascoltato questa canzone che si intitola Delta Chrome. Ricordiamo Gio Colombo con i Delta Chrome ospiti qui negli studi di Blu Radio Veneto per questo venerdì 25 marzo. Sì, questo praticamente è il pezzo che apre il disco da studio, è diventato anche praticamente la tua band, questo nome Delta Chrome. Sì, è diventato tutto. Oltretutto, voglio proprio dire un aneddoto. Questo pezzo non doveva neanche fare parte del disco ed era il pezzo che abbiamo registrato penso alla fine di tutta la session e che non sapevamo, abbiamo detto vabbè, ma siamo forse qua, registriamolo, poi vediamo, lo metteremo, e alla fine è diventato il primo pezzo del disco, il titolo del disco, il titolo della band, il titolo, il nome della casa dove viviamo, la Delta Home. Quindi è una cosa trascinante, ormai tutto. Poi abbiamo fatto, piano piano stiamo creando i Delta Panini, i Delta, facciamo una catena di prodotti. Benissimo, ma l'origine Delta è sempre il discorso del blues oppure no? Sì, chiaramente è l'unione di due parole, Delta che fa riferimento al Delta del Mississippi o Delta di insomma qualsiasi fiume. Anche noi in Ticino abbiamo un fiume con un Delta, che mi piace pensare che ha a che fare col blues anche quello. E Chrome, vabbè, il cromo che chiaramente può riportare un po' al tipo di chitarra, al suonatore, a queste chitarre di metallo. Chiaramente ha un riferimento anche al metallo, quindi a quello che può essere una cosa un po' più dura e un po' più rock. E quindi questo Delta Chrome è un altro modo per dire blues rock. Perfetto, chiarissimo. Suoniamo adesso, ok? Ok, suoniamo. Facciamo un brano appunto dell'album Delta Chrome che si chiama Big River Blues, giusto per stare in tema di Delta River. Così. Esatto. down in the darkness. Peccato che sia finita. Sì, esattamente. bravi, complimenti. Gio Colombo e Delta Chrome live qui da noi a Blu Radio Veneto. Devo dire che mi è piaciuta veramente tanto, complimenti. Rocco, hai solo spazzolato, qua. Ti sei limitato a spazzolare. Ha spazzolato anche a tavola. Spazzolato anche. E allora, com'è che si intitolava il brano? Big River Blues. Big River Blues. That's what I'm talking about. E poi c'era la voce di Franco che dava un tocco proprio sanguigno al pezzo. Buonasera a tutti quanti. Bene, l'idea di fare questo pezzo, al di là di questa esecuzione live, com'è nata, Gio? Big River, fammi pensare. L'ho composto un po' sul prendendo ispirazione dal flusso del fiume, chiaramente Mississippi, fiume largo, fangoso, lento, quindi paragonandolo un po' al ritmo della vita, agli alti e bassi, al fatto di trovarsi quasi a camminare in questo fiume assieme alla corrente, certe volte sprofondare, certe volte venire su, insomma. Questo flusso, questo movimento della vita o del fiume, chiaramente con tutti i riferimenti al blues e alle sue origini. Non è proprio calmo però il pezzo. Gian Andrea pompava alla grande con il basso, visto io. Era un fiume in piena. Proprio pompava alla grande con il basso, quindi. E siamo nella dimensione acustica, ragazzi, quindi se fossimo nella dimensione elettrica scoppierebbe qualcosa, musicalmente parlando, parlo sempre. E se ancora le orecchie fischiano da ieri sera. Sì, a Trieste, abbiamo fatto il live a Trieste, chiaramente. Bene, potremmo mettere anche un altro pezzo da disco adesso, ci riposiamo un secondo. Eh sì, così riprendiamo fiato. Esattamente. Vediamo un po' cosa abbiamo messo in scaletta. La traccia numero 7 abbiamo messo in scaletta. Che è la ballata, By My Side. E che è molto bella. No, è la Be My Baby. Be My Baby, benissimo, così rimaniamo sul blues. Questo è uno degli ultimi strascichi blues rimasti, adesso detta un po' duramente, nell'album Delta Chrome, però questo è proprio uno shuffle. Perché strascichi? Strascichi perché, vabbè, Delta Chrome è risultato un album abbastanza rock, soprattutto per gli affezionati del blues più tradizionale. Però questo brano, Be My Baby, invece è uno strascico rispetto a quello che facevamo prima anche dal vivo, molto più legato allo shuffle, allo slow blues e a questi ritmi più tipici. Quindi Be My Baby, sì, la mia piccola, lasciamo parlare al brano. Certo. E allora andiamo a sentire immediatamente Be My Baby con noi, Gio Colombo, Delta Chrome. Rockwave, l'onda del rock. We'll be right back. l'onda del rock. E allora continuiamo a stare insieme all'interno di Blue Radio Veneto con Rock Wave. Questa sera abbiamo con noi la band di Gio Colombo e Delta Chrome, che sono venuti a trovarci. Stiamo ascoltando la loro musica e da CD e ovviamente anche live. Maurizio. Sì, dobbiamo un momento ringraziare la loro manager, l'Elena, che è qua, che vi ha portato qua, e il nostro direttore artistico, che è Alberto Prisco. Un connubio di, certo, di intenti. Un grazie ufficiale. Adesso parliamo un momento di questo pezzo. Mentre il pezzo andava, con i ragazzi abbiamo fatto questa ipotesi, il discorso del blues, che gli amanti del blues hanno un po' tirato le orecchie, Gio. Sì, poi sono discorsi che durante i viaggi tra una data e l'altra, insomma, in macchina infuoca questo dibattito tra il blues e il rock. In realtà io non voglio prendere né una parte né l'altra. Il blues è la musica che sento assolutamente, probabilmente di più, perché ho cominciato a suonare proprio con quella. Ho avuto come l'impressione che il disco Delta Chrome, essendo abbastanza forte, abbastanza rock, abbia scaturito, perché penso che alla fine gli affezionati rimangono affezionati, però insomma per chi ama il blues più tradizionale, forse è rimasto un po' così stupito, ecco. Ma devo che è stata colpa di Franco, mi ha detto. Sì, c'era prima. Franco, la voce della band, è il rockettaro, è il dio del rock, come lo abbiamo ribattezzato in Polonia. Esatto. Ah, sì, siete stati in Polonia, chiaramente. Ma no, non raccontiamo come. No, perché non lo si può dire. E comunque, allora lui vuole sempre prendersi tutte le responsabilità di questa cosa, e io invece voglio dire che con orgoglio mi schiero anch'io da questa parte. Insomma, ascolto tanto rock, e non solo adesso, ancora prima che registrassi il primo disco, quindi fa parte di me, e insomma la devo tirare fuori questa parte, perché altrimenti prima o poi si ribella. Sì, chiaramente non è stata una dimenticanza volutamente, è stato un percorso. Hai fatto un percorso. Oltretutto devo dire la verità, anche il primo disco, Bottleneck Snakehead o Natural Born Slider, come è stato rintitolato, a mio parere rimane comunque un blues con un approccio molto rock, e mi ricordo anche quando è uscito, comunque eravamo considerati tra virgolette con un po' di spavento per un certo tipo di magari manifestazione blues più tradizionale. È sempre brutto etichettare queste cose, lo si dice sempre, poi alla fine lo si fa. Certo. Alla fine... avete avuto di ottimi riconoscimenti. Nel 2002 Buscadero, che è un magazine importante in Italia, t'ha considerato notevolmente come rivelazione all'epoca, insomma. Sì, è stato recensito molto bene l'album del 2002, viviamo ancora anche di questa cosa, perché sono state ottime recensioni. Certamente, continueranno ad essere, il disco nuovo è decisamente forte, notevolmente forte. Ok, adesso potremo fare sicuramente qualche altro pezzo, cosa dite? Sì, facciamo un altro brano sempre dall'album Delta Chrome. Abbiamo deciso per Cold Night. Questo è un brano che è nato quando l'ho composto, proprio acustico e molto, molto aperto e molto soft, tra virgolette. È uno di quei brani che si è trasformato proprio durante l'arrangiamento con la band, è diventato uno dei pezzi più duri del disco. Perfetto. Adesso questa versione acustica probabilmente riprenderà un po' le sue origini, quindi lo faccio con piacere. Benissimo. Ci riporta anche a quando il pezzo me l'ha proposto a casa mia. È venuto giù un giorno a Milano con la sua dobro, mi ha detto: ho questi brani, questi testi, proviamo a fare qualcosa. E col Night l'ho fatto diventare mio in quel momento, sul divano di casa nostra, dopo un bel piatto di pasta e una buona bottiglia di vino e qualche cicchetto di Jack, mi ricordo, ed erano le 3 del pomeriggio. Ed eravamo vestiti. Erano le 3 del pomeriggio. E devo dire che Cold Night è stato il primo pezzo che mi ha proposto, e devo dire che il risultato che poi ne è venuto fuori è assolutamente fantastico. È uno dei pezzi che a me del disco personalmente piace di più. Perché a me non piacciono gli strumentali solo perché non ci canta. Per quello. No, in realtà la bellezza di questo disco e di questa band è la capacità mettere assieme le parti più strumentali, dove comunque Joe ha sempre quella sua anima, soprattutto nelle lenti, molto delicata, molto melodica, con diciamo le mie arrabbiature rock che vengono fuori così in maniera incontrollata. Ti voglio bene, Franco. Allora paga la manager. E allora ce l'andiamo a sentire, Cold Night. Blowing so hard in my heart. It was a cold, cold night, baby. The wind was blowing away all my dreams. Before I met you, baby, my heart was blowing cold in the night. It was a cuckoo night, baby. The rain was running the tears from my eyes. It was a cuckoo night, baby. The rain was washing away all my dreams. Before I met you, baby, the rain was running down in the night. Cold, cold night, baby. Cold night, my baby. Cold, cold night, baby. Cold night, my baby. Eccoli qua, bravi, complimenti. Bravissimi. Gio Colombo e i Delta Chrome con noi a Blu Radio Veneto, anche questa sera grande musica dal vivo e non solo, perché insomma, oltre ovviamente ai pezzi live in acustico, ascoltiamo anche le cose che ci hanno da presentare questa sera Gio Colombo e Delta Chrome. Maurizio, voglio dire una cosa, i nostri ascoltatori devono saperlo, Rocco ha fatto un rumore delle chiavi per iniziare il pezzo, era molto divertente. Decisamente. Poi devo dire una cosa, Gio, hai fatto un bluegrass esasperato alla fine, insomma, hai aggiunto il country, hai messo chiaramente, alla fine c'era il blues, ma dentro c'è il bluegrass, secondo me, in sì, senso positivo del termine. Eh beh, certo, sempre positivo, bluegrass. Proprio esasperato al massimo. Beh, diciamo che anche questo tipo di sonorità, lo slide e la chitarra resofonica, oltre che abbinarsi al blues, si abbina chiaramente alla musica country e al bluegrass. Certo. Sì, è musica redneck a tutti gli effetti. Esatto, tutti gli effetti. Vorrei sapere due cose, da Franco e da Franco, il musicalmente... parte dal rock. E tu da dove parti musicalmente, parlando? Il nostro batterista. Beh, cioè io parto, Rocco. Dal blues forse in origine, proprio. No, quando veramente avevo verso i 9-10 anni ho cominciato veramente ad ascoltare tantissimo blues fino ai 20, ma veramente ero proprio un talebano del blues, ascoltavo solo blues, ma da Undock Taylor a Johnny Winter a B.B. King, ma avevo 11-12-13-14 anni. Poi piano piano, ho cominciato già a suonare con altri ragazzi con cui collaboro ancora tutt'oggi, e piano piano ho conosciuto Joe, poi verso i 20 anni d'età abbiamo cominciato a frequentarci, lui mi ha aperto un po' le strade, per esempio a Steve Vai, e questo gli sarò per sempre riconoscente perché mi ha aperto un mondo, e da lì oltre al blues ho cominciato ad ascoltare appunto anche un certo tipo di rock. E forse devo aggiungere che il blues è stato veramente il primo amore, però in famiglia già mio padre ascoltava molta fusion, molto jazz, quindi comunque un po' di jazz e fusion sempre con il blues l'ho ascoltato. Certamente. Quindi sono un po' vecchia scuola. E poi sono passato direttamente al rock un po' zarro da chitarrista. Ho saltato tutta quella fase 60-70 del rock inglese che non mi piace nemmeno un po', personalmente. E sono passato subito a un altro tipo di rock, sono passato subito agli anni, forse fine anni 80-90 in avanti. Ho capito. Gian Andrea? Sì, io sono un po' il giovincello della band e non ho avuto nessuno che all'inizio mi ha diciamo neanche proposto dischi di blues. A casa mia si ascoltava tanta musica classica, cosa che poi ho ripreso a 10 anni di distanza. Io ho cominciato con il rock degli anni 90 americano, il grunge, queste cose. Poi, quindi Nirvana. Sì, esatto, gruppi di questo tipo. Poi sono andato sempre più indietro, nel senso che anche adesso la mia ricerca anche a livello di suono si sposta sempre più verso gli anni 70, 60, anche 50. Però, interessante. Sì, proprio anche a livello di strumenti, se magari 10 anni fa suonavo dei bassi di liuteria molto complicati, 6 corde, con dei suoni molto alta fedeltà, adesso il mio orecchio ricade sempre più sui primi Fender, sui Gibson più tradizionali, senza comunque lasciare perdere il resto, certo, di quello che, benissimo, che mi richiedono anche gli altri gruppi con cui suono. Chiaro. Franco, avevamo già parlato del discorso del rock, però adesso avvicinati al microfono e mi parli ancora del rock. Dove è partita il tuo modo di cantare? Allora, io sono il nonno intanto della band, e quindi noi se dovessimo così fare un percorso anche cronologico della band, io sono il più anziano e quindi posso coprire quella fetta di musica che va dagli anni 60 fino ad oggi, e poi a scalare tutti gli altri, appunto, arrivando poi al giovincello. Tu copri quello che non ho ascoltato io. Sì, esatto, rock ma comunque inglese. Voglio dire che Rocco ha parlato di Steve Vai, quindi sì, di rock anni 80, ma nella Delta Home lui nell'armadio c'ha gli spandex dei Motley Crue, quindi abbiamo capito quindi no, io ho iniziato il mio percorso musicale e come è successo a molti bambini nati negli anni 60, messo davanti una radio con magari la mamma quando non era al lavoro a casa affaccendata, radio accesa, e io, il mio ricordo è collegato ad Alto Gradimento di Renzo Arbore e Gianni Boncompagni e ai Paredi di Lelio Luttazzi, quindi, e ricordo che la cosa che più mi spaventava all'inizio quando si era bambini erano gli acuti di Child in Time di Ian Gillan. Io ne ero letteralmente terrorizzato, tant'è che per anni io quella canzone non la volevo sentire. E poi dopo chiaramente crescendo, diventando più grande, passando quindi da tutto quello che è stato l'ascolto della radio negli anni 70, la nascita delle radio private e tutto il resto. La mia cultura musicale si è sviluppata proprio attraverso la radio, più che attraverso l'acquisto dei dischi. E quindi è stato tutto un percorso fatto da solo, e di questo ne sono orgoglioso, perché tutto quello che ho scoperto nella musica è stata la mia curiosità, la mia voglia di crescere culturalmente, perché la musica non è solo arte, è soprattutto cultura. E quindi poi sono arrivato a lavorare casualmente con musicisti svizzeri e siamo praticamente entrati tutti in contatto, e tant'è che molte volte ci siamo scambiati delle collaborazioni. Rocco ha collaborato con me in un'altra band cinese, lui ha girato Il mio nome a Joe, io l'ho visto suonare anni fa in maniera strumentale, me lo ricordo che l'ho visto suonare in un locale dove suonavamo quella stessa sera anche noi, questo biondone molto molto Ted Nugent. Ha ragione Ted Nugent. Ma la cosa che appunto a me, tra l'altro, che ho ascoltato dischi strumentali, l'aveva lasciato un po' sorpreso, è che nella sua musica, e non perché ci sono arrivato io, e io non conoscevo nulla del suo percorso musicale, sentivo la mancanza di un'espressione maggiore della sua musica, secondo me l'aggiunta di una voce. Io a quell'epoca non sapevo neanche chi fosse, non pensavo che poi 8-9 anni dopo ci saremmo incontrati, e devo dire che questo comunque per me è stato un percorso di crescita ulteriore, perché lui mi sta avvicinando a certo blues abbiamo scoperto tante cose in comune, siamo tutti e due dei fan di Zakk Wylde, per esempio, infatti le nostre barbe stanno cercando di raggiungere i livelli sia degli ZZ Top che quelli di Zakk Wylde. Questo no, per dire dell'aspetto di verde, però ecco, con loro e quello che loro mi stanno dando a livello musicale è l'avvicinamento a un certo genere che io ho dentro, perché comunque il rock nasce dal blues, e che loro mi stanno educando e mi stanno aiutando ad esprimere nella maniera migliore. Perfetto. Ecco Maurizio, però lui ha parlato di radio, ma evidentemente ha ascoltato la musica della radio, ma le radio giuste, perché poi ci sono le radio sbagliate. È vero, hai ragione. Come Negroni sbagliati. Esatto, solo che quello fa bene soprattutto in tante quantità, ma mi raccomando, andate sempre in giro a piedi quando bevete i Negroni sbagliati. Ecco, quello è fondamentale, mai guidare l'auto, e anche la bicicletta può essere pericolosa, assolutamente. Va bene, andiamo a sentirci allora un altro brano tratto dal loro precedente CD, appunto ci ascoltiamo la traccia numero 9 che è Southern Lullaby. Southern Lullaby. Sanina sì, nanna del sud. Sì, poi dopo la dichiarazione di Franco sulla musica strumentale, adesso ci ascoltiamo un bello strumentale. Questo è un pezzo che oltretutto ho dedicato a mio primo figlio, e vabbè, lo voglio dire così come aneddoto. Southern Lullaby. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Thank you. Rock Wave, l'onda del rock. E allora siamo ancora insieme all'interno di Rock Wave, nel nostro programma che ogni sera vi accompagna con delle belle novità a livello rock e anche poi con delle band che vengono a trovarci, come hanno fatto Gio Colombo e i Delta Chrome, che sono qui con noi questa sera per farci sentire e conoscere la loro musica. Musicalmente è una ninna nanna, per modo di dire, solo la parte finale è una ninna nanna, Gio. È un pezzo molto tirato, decisamente tirato. Sì, è un crescendo. Questo pezzo oltretutto lo sentivo molto orchestrale. Mm. Ci avrei messo volentieri degli archi. Vabbè, e ci stavano, eh? Ci stavano, mm. Vabbè, non siamo riusciti a farlo, non è venuto in mente al momento giusto. Sì, è un crescendo, è proprio una parte molto soft come una ninna nanna e poi è un crescendo. Mi piace molto questo pezzo. Southern, quindi Southern è già un'indicazione. Sì, sì, certo. Fondamentale. A me viene in mente un disco di Tom Petty, Sovereign Accident, te lo ricordi? Non sono un suo grande fan quindi non ho in mente il pezzo in particolare. Ma è un disco abbastanza famoso, cioè sì. Famoso. Da classifica, ma Tom Petty ha sempre fatto delle cose belle, secondo me, sì, al di là sì, ha comunque questa sonorità che è una via di mezzo tra il cantautorato e il rock, è un po' un nuovo Dylan, lo promuovevano così quando è uscito, mi esattamente. Sembra. Esattamente. A proposito del nuovo Dylan, sai quante volte in America hanno detto questo è il nuovo Dylan? Il primo è stato il boss, questo è stato il boss, il primo in assoluto. Giusto, hai detto una cosa giusta. Ho letto nella tua biografia, hai fatto 200 concerti all'estero, molti negli Stati Uniti. Sì, è stato un periodo dove suonavo con Terry Evans, che è il vocalist di Ray Cooder, e con la sua band. È stato un periodo dove ho fatto importanti esperienze, soprattutto per quello che sono gli Stati Uniti, quindi tanti concerti in giro per l'America e anche in Europa, in posti dove comunque non ero stato. E, anzi, a ottobre di quest'anno tornerò a fare un breve tour con Terry Evans e la sua band americana. Così sarà una piccola cosa in mezzo a tutta l'attività dei Delta Chrome, che comunque ci tengo a spingere in primo piano. Certamente. Adesso. Poi ho letto sempre la biografia che hai fatto due tributi ad Hendrix, hai suonato con Robin Ford ed altre gente. Sì, sono stati due album tributo a Hendrix prodotti dall'etichetta discografica che ha preso il nostro primo album. Non ho suonato direttamente con Robin Ford, Steve Lukather e tutta questa gente, ognuno ha registrato in tempi diversi, in posti diversi, però chiaramente è un privilegio essere su un album tributo a un personaggio come Hendrix e a fianco chiaramente di chitarristi con molta più esperienza e più storia di quella che ho io, quindi è stato insomma un onore. Tu vieni dalla Svizzera, la situazione è svizzera dal punto di vista musicale rispetto all'Italia, tu hai suonato anche in Italia, com'è? Ci sono delle band emergenti, c'è movimento? Sì, c'è una band emergente abbastanza brava, si chiamano Gio Colombo Delta Chrome. Perfetto! No, adesso scherzando, ogni tanto noi viviamo nella Svizzera italiana, quindi molto vicino all'Italia e poi venendo Franco da Milano. Da Milano. Quindi spesso si parla e chiaramente lui parla meglio di quello che è il panorama musicale ticinese, noi parliamo meglio di quello che è il panorama musicale italiano, perché come si dice sempre l'erba del vicino è sempre più verde, poi in realtà è uguale da tutte le parti. Verissimo. Ok, Francesco, cosa dici? Un altro pezzo dal vivo? Ah beh, per me non lo devo cantare io, quindi per me ne facciamo quanti ne vuoi, dipende da loro ovviamente. Va bene, facciamo un brano che si chiama Tell Me. Che non è quella dei Rolling Stones inizio carriera. Non è quella dei Rolling Stones, è un brano ispirazione chiaramente... canzone d'amore sentimentale, anche se ritmicamente, armonicamente non è la ballata classica, però i testi è stato comunque ispirato a quello. Termi, dimmi quanto mi vuoi, insomma è una dichiarazione. Vabbè, si chiama Tell Me allora. Perfetto. E allora ce li ascoltiamo dal vivo, pronti con Tell Me, Gio Colombo e Delta Chrome. Tell Tell me what you got in your mind, what you got in your head, what you got in your brain, what you got in your, tell me what you got in your mind, in your head. Tell me, tell me, open your heart, tell me you love me some more. Tell me, let me hear what you say, let me hear your words, let me hear more and more, let me hear what you tell me, let me hear from your mouth, from your lips. Tell me, tell me, open your heart, tell me you love me some more. Eccoli qua, Tell Me, Delta Chrome, Gio Colombo con noi live anche questa sera, venerdì 25 marzo su Blu Radio Veneto, grande appuntamento insieme a Maurizio Calzavara, insieme appunto a Gio Colombo e Delta Chrome, Francesco Galante ad accompagnare e a seguire la regia. E poi ricordiamo che eventualmente, se volete in qualche modo comunicarci le vostre impressioni, potete scrivere i vostri sms al 346 23 20 033 oppure mandare delle email all'indirizzo info@bluradioveneto.it. Poi nei prossimi giorni sarà possibile anche riascoltare la trasmissione attraverso il nostro sito internet, quindi vi invito ad andarlo a vedere se vi siete persi qualche cosa, www.bluradioveneto.it, sezione live. Posso dire una cosa, Franco? Prima l'accarezzavi il pezzo, poi lo aggredisci, lo prendi proprio, lo fai tu al 100%. Beh, questo è un po'... voglio essere leggermente immodesto, sì. Questo è solo semplicemente, no, è dovuto a più di 20 anni di sacrifici, perché la musica è sacrificio, e quindi sono 20 anni di lavoro duro che mi hanno lasciato come patrimonio questa voglia di entrare nelle canzoni, nei brani, interpretarli, farli miei, viverli in base non solo all'umore mio personale, ma anche in base a quello che il brano descrive sia musicalmente che a livello testuale. E quindi Tell Me, che è una dichiarazione rabbiosa, quasi una richiesta che il proprio uomo, in questo caso, perché chi ha scritto questo brano è un uomo e chiede alla propria donna, dice cosa gira nella tua testa, cosa c'è nella tua mente, cosa c'è nel tuo cervello, dimmi cosa c'è. E subito dopo dimmi cosa ogni tua parola vuole significare. Questa è la richiesta che un uomo, che in questo caso può essere anche ferito, non solo innamorato, ma ferito dal silenzio della propria donna, o sente che sta andando via. Questo è blues, è anima, e non si può non cantare in questa maniera. Poi l'arrangiamento acustico che permetto per gli ascoltatori, lo abbiamo deciso adesso, non l'abbiamo provato. E questa non, secondo me non è una nota di demerito, ma va come mio omaggio agli altri ragazzi, alla band. È questa la capacità di sapersi collocare in un determinato ambito e rendere il brano adatto alla situazione. E questo lo posso fare solo se ho a che fare, e lo dico questo con orgoglio, con musicisti eccezionali. Io sono molto fortunato, nella mia vita ne ho incontrati veramente tanti, e con loro sto facendo un percorso bellissimo. E dobbiamo ribadire una cosa: quando si suona quasi acustico è molto più difficile che suonare elettrico, secondo me, perché l'elettrico bene o male si riesce anche a nascondere certe cose, l'acustico no. Ma io vorrei invece un po' smentire questa fase. Secondo te non è così? Secondo me suonare bene è difficile, suonare bene acustico quanto elettrico. Chiaramente soprattutto quando si è ragazzino, quando si comincia a suonare, si prende la chitarra elettrica, il distorsore, si fa un gran casino. Insomma, sembra che si sappia suonare, anche se in realtà si stanno facendo degli abbozzi. In realtà chi suona bene lo fa sia con grandi distorsioni a volumi elevati che in acustico. Suonare. Oltretutto così ne approfitto per dire che come musicista, come ho il blues e il rock, ho anche sempre avuto questa cosa dell'acustico e dell'elettrico, perché la chitarra che io suono è una chitarra acustica che poi io ho modificato per poterla suonare ad alti volumi, con un'espressione diversa, con poi l'ausilio di distorsione, di wah-wah, insomma. Hai fatto un lavoro sulla chitarra, praticamente. Sì, ho mescolato lo strumento acustico con le sonorità elettriche, ma suonando pur sempre uno strumento acustico, quindi fisicamente io suono sempre lo stesso strumento, sia qua adesso che al concerto di ieri sera. E questa cosa mi piace molto, mi piace unire le due cose e pensare che non ci sia veramente una grande differenza. A me piace molto che finale dei vostri pezzi faccia una specie di jam session, quindi un rumore potenziale bello, un rumore musicale, come jam session, come una lunga suite che termina praticamente. Sì, c'è tanta improvvisazione nei brani, come dicevo adesso siamo in un momento particolare, perché il progetto è partito tanti anni fa, nel 2002, con appunto il primo disco che era tutto strumentale, quindi è rimasto un approccio strumentale con tanta improvvisazione. Adesso questo disco Delta Chrome, con l'arrivo di Franco, che oltretutto è arrivato durante la lavorazione del disco, quindi è ancora in parte strumentale, in parte cantato, ci troviamo in una via di mezzo. Penso che il prossimo sarà il passo decisivo, quindi rimane tanta improvvisazione, che comunque è un nostro punto forte. Ci piace improvvisare e ci piace che sia così, perché spesso se dobbiamo preparare le cose non riusciamo a farlo, e ci mettiamo sempre nelle condizioni di arrivare e dover buttare fuori le cose. Ma quella forse è anche l'anima del blues che rimane nella nostra musica, anche se magari all'orecchio dei più puristi può sembrare rock per come distorto. In realtà, come nel blues, anche noi abbiamo ancora molta improvvisazione dal vivo all'interno dei pezzi più potenti. E io penso che non la perderemo mai, cioè spero che non la perderemo mai questa cosa, indipendentemente da dove andremo coi prossimi dischi. Penso di no, perché è tanti anni che è un modo di suonare che ti entra dentro, quindi ti rimane. Non penso che riusciremo a fare un concerto, un'esibizione dove io preparo la solo e lo faccio uguale ogni sera, nota per nota. Certo, dal vivo secondo me si deve improvvisare, si deve cambiare, si deve allargare, a mio parere, non so se siete d'accordo. Anche secondo me, anche perché ogni sera è diverso, ogni posto è diverso, ogni pubblico è diverso, ogni sera ti senti anche diverso personalmente, hai voglia di fare un brano più in una maniera che in un'altra. E è bello lasciare questa libertà. Uno può anche venire a sentirti diverse volte di fila e tra virgolette i brani possono essere anche abbastanza stravolti da una volta all'altra. Benissimo, e stasera voi avete fatto totalmente diverso, come fate, avete fatto a Trieste o farete in qualche altra data, quindi avete creato per noi i pezzi, una cosa molto positiva, siamo molto onorati, vero Francesco, di questo? Assolutamente. Sì, poi devo dire la verità che avendo pianificato questa cosa in radio con voi mi sono chiesto, anzi ho anche un po' panicato, a un certo punto non sapevo, dico, cosa faccio, magari da solo non abbiamo mai preparato veramente qualche cosa insieme in acustica, e dico magari in albergo riusciamo a preparare qualcosa. Alla fine come è andata a finire? Che siamo arrivati qua, non avevamo preparato niente e abbiamo suonato i pezzi. È quello importante. No, Maurizio, dicevo, proprio la settimana scorsa su una domanda del genere era venuto fuori invece che la band che suonava ogni volta faceva le stesse canzoni nello stesso modo come erano incise nel disco e non cambiavano mai, vedi come siamo diversi, anche le idee sono diverse. Sì, poi è una questione di anche i generi musicali, ad esempio nel pop si richiede... una certa continuità, sì, la produzione richiede proprio che il pezzo sia fatto in un certo modo con un certo tipo di sonorità sempre uguali. Noi appunto venendo dal blues, come diceva giustamente Gian Andrea, ci è rimasto dentro questo lato molto spontaneo, quello di sperimentare, sì, che non vuole denigrare nessun altro modo di fare musica, no, questo è il nostro. Diciamo che noi risparmiamo le nostre fatiche fuori dal palco, nel senso che ci piace essere molto pigri, molto, molto tranquilli, non è vero, nella vita privata, mentre invece sul palco, che comunque ribadisco per noi non è solo divertimento, anima, è arte, è lavoro, è la nostra vita, quindi sarebbe stupido secondo me salire su un palco e non dare al pubblico quello che non solo si aspettano da una band come la nostra, ma prima di tutto da noi stessi. Io sarei ipocrita se salissi su un palco ed eseguissi un compitino semplice perché voglio dire le nostre vite quotidiane sono fatte magari di routine, di lavori normali, perché anche noi siamo come tutti gli altri, beviamo anche noi negroni sbagliati, quindi però sapere che anche sul palco che comunque ribadisco per noi è una professione, salirci con la stessa intenzione con la quale si va a timbrare un cartellino e si aspetta la pausa caffè significherebbe morirci sopra nella maniera peggiore, quindi ben venga questo dispendio di energia e questa voglia anche di inventarsi, e io premetto ogni volta mi improvviso cantante con loro e con tutte le situazioni nelle quali suono, non so mai cosa possa succedere, quindi però è bella anche la pausa caffè, insomma. Sì, esatto. Ma anche la pausa grappa qui le fate buone le grappe. Sì. E Rocco, stranamente, che la macchina ritmica, non hai detto una parola, confermi tutto quello che hanno detto i tuoi colleghi? Sì, no, ma se andiamo a mangiare prima qua da parte, mi sto assopendo veramente. Questo è il bello di girare in Italia comunque, suonare, eh? Sì. Perché ci offrite sempre dei grandi pranzi e delle grandi cene che in Svizzera magari non troviamo. Poi lui è vegetariano, quindi fate per cento in più quello che mangiamo noi. Lui è sanguigno con le verdure, questa è un po' strana. Ok, Francesco, sentiamo un pezzo dal vivo adesso, dal disco dal vivo, cosa dici? Sì, il disco dal vivo, che è il loro ultimo lavoro, insomma l'ultima fatica, sì. È tutto registrato dal vivo in Polonia. Esatto, oltretutto questo disco dal vivo, che oltretutto, se posso permettermi, faccio un po' di pubblicità, si può acquistare sul sito ufficiale che è www.giocolombomusic.com, sia questo che Delta Chrome. È l'ultimo disco uscito dal vivo, registrato in Polonia l'anno scorso, e il brano che andiamo ad ascoltare è un secondo me è proprio una botta di energia. In questo disco dal vivo oltretutto c'è un buon equilibrio tra i pezzi più duri e più rock provenienti da Delta Chrome, che secondo me si sono induriti ulteriormente, però abbiamo inserito tanti pezzi più blues e più tradizionali, quindi è venuto un buon compromesso tra passato e presente. Due anime. Le mie due anime. Esattamente. E allora lo andiamo ad ascoltare, la canzone che andiamo a sentire è Upside Down Blues. Oh yeah. Rock Wave, l'onda del rock. Are you ready? Living all around, walking with the shoes.

Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. E allora eccoci qua ancora per un quarto d'ora circa prima di lasciarci. Francesco Galante, Maurizio Calzavara con voi con Rock Wave, l'onda del rock. Abbiamo ascoltato questa canzone Upside Down Blues direttamente dall'ultima fatica di Joe Colombo e Delta Chrome. Abbiamo parlato prima del sito internet dove poter eventualmente acquistare l'album. Diamo proprio tutti gli indirizzi eventuali, anche se ci sono, di MySpace o quant'altro. Sì, beh, cito ancora una volta il sito ufficiale, che è quello dove si possono acquistare i dischi e dove ci sono tutte le maggiori informazioni, che è www.giocolombomusic.com. Da lì c'è anche il link per MySpace, siamo anche su Facebook, siamo dappertutto, come oggi insomma si vuole che si sia su tutte queste siti. E vabbè, io non sono molto pratico in queste cose, però ci siamo presenti e la nostra musica c'è, insomma. Benissimo. Il pubblico polacco era bello, pimpante, focoso nel senso musicale del termine. Sì, è stata un'esperienza veramente speciale quella in Polonia l'anno scorso, da cui è stato tratto quest'ultimo disco, perché era la prima volta che siamo andati un po' alla cieca, proprio non sapevamo cosa aspettarci, e siamo stati trattati prima di tutto benissimo, e abbiamo fatto un concerto in un teatro che era sold out, malgrado veramente era la prima volta che andavamo in Polonia, il disco non era ancora stato distribuito particolarmente su larga scala, quindi hanno fatto un grande lavoro di promozione, e questo da proprio vedere come quando si promuove un evento e si mette l'input giusto nelle cose, poi si ottiene anche il successo meritato. Quindi un grande pubblico, una grande organizzazione, è stato registrato il concerto sia audio che video, non è detto che uscirà un DVD in futuro, per adesso abbiamo questo disco appena uscito, Border Life, questo documento praticamente. Vai, Franco. E tra l'altro abbiamo anche, grazie sempre all'organizzazione in Polonia, girato un bel clip che potete trovare su YouTube digitando come Joe Colombo e Delta Chrome. Troverete il clip di Cold Night, anche che per noi è stata la prima esperienza in videoclip. Videoclippare. È stata, visto il risultato finale, siamo rimasti molto molto sorpresi, e secondo me è molto gradevole, rende anche molto l'idea del brano, perché siamo ripresi noi semplicemente che stiamo suonando in questa fabbrica di roccata, e che all'inizio poteva dare l'idea che fossimo addirittura, a noi ha fatto pensare che fossimo quasi una band heavy metal, invece poi il risultato, il montaggio e come è stato costruito il video ci ha letteralmente sorpresi, e la qualità è veramente molto buona, quindi potete anche andare su YouTube e vedere questo video. Ok, Francesco, un altro pezzo dal vivo, allora abbiamo scelto. Non perdiamo tempo, andiamo subito allora con la traccia numero 3, che è Just Go Paid. Sì, questo è un tributo alla band di cui parlavamo prima, ZZ Top. Abbiamo grandissimi. Sì, dal vivo riprendiamo sempre questo brano, che è uno dei loro vecchi brani. Quindi Just Got Paid e ZZ Top. Perfetto. Hear the ground, I was on the run. beggar's fool. It's a river here and you know the rest. That's why I have my hand, you know my second glass. L'onda del rock. E allora eccoci qua in fase di chiusura con questa bella gente che è venuta a trovarci questa sera, Gio Colombo e Delta Chrome, bravi bravi, li abbiamo ascoltati con questo pezzo dal loro ultimo lavoro che è un live direttamente dalla Polonia, era Just Go Paid e l'abbiamo ascoltata. Maurizio, siamo in chiusura però abbiamo il tempo insomma di salutare con calma i nostri ospiti. Sì, salutare con una cosa specialissima per me, per i nostri ascoltatori, Hendrix, è sempre lui, quindi questa cover di Hendrix, un pezzo famosissimo, coverizzato da so quante gente, Joe. Beh, ormai è un classico. Anche sì. I Coast l'hanno coverizzato, che non è proprio hendrixiani, però insomma. Quindi sì, vabbè, vorrei ringraziarvi tutti e, per questa opportunità, è stato molto bello, anche per noi è stata l'occasione di sperimentare questa cosa acustica dal vivo e concludiamo allora con il grande Hendrix, facciamo una Little Wing. Grazie a voi, dobbiamo sottolineare una cosa che è stata una cosa assolutamente non provata, spontanea da parte di Joe e della sua band, quindi è una cosa molto ancora più positiva, un grande onore per noi, ripeto. Ecco, Maurizio. Valore aggiunto. Esatto. Maurizio, prima di chiudere, di sentire quest'ultimo pezzo dal vivo, ricordiamo che domani, che è sabato, ci sarà un appuntamento speciale con Rock Wave e ci saranno i Charlestons esatto. Direttamente da Udine con la loro musica che potremmo definire come un rock pop, possiamo un rock molto pop. Vicino al brit inglese, quindi va bene, quindi diamo questo appuntamento domani sera, che è sabato, alle 21 su Blu Radio Veneto. Esattamente. Allora ringrazio te Maurizio per essere stato con grazie noi, ringrazio a te, Francesco. Tutti gli amici che ci stanno seguendo, vi ricordo che potrete eventualmente scaricare in podcast nei prossimi giorni la puntata di questa sera con i nostri amici. Ringrazio nuovamente Gio Colombo e i Delta Chrome per essere stati con noi a Blu Radio Veneto a Rock Wave. She's walking through the clouds with the circles of mind that's run around. Butterflies and zebras and movies, fairy tales. Fly away. As they It's alright, it's alright, she said tonight. Take it, anything you want from me, anything. Fly with the wings. Rock Wave, l'onda del rock.